Vangelo di San Luca, capitolo 20. E avvenne un di quei giorni che mentre insegnava al popolo nel tempio ed evangelizzava, sopraggiunsero i capi sacerdoti, gli scribi con gli anziani e gli parlarono così: «Dici con quale autorità tu fai queste cose, o chi ti ha data codesta autorità?» Ed egli rispondendo disse loro: «Anch'io vi domanderò una cosa, ditemela. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni era un profeta». E risposero che non sapevano onde fosse. E Gesù disse loro: «Neppure io vi dico con quale autorità fo queste cose». Poi prese a dire al popolo questa parabola: «Un uomo piantò una vigna, l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio per lungo tempo. E nella stagione mandò a quei lavoratori un servitore perché gli dessero il frutto della vigna, ma i lavoratori, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli di nuovo mandò un altro servitore, ma essi, dopo aver battuto e vituperato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli mandò ancora un terzo, ed essi, dopo aver ferito anche questo, lo scacciarono. Allora il padrone della vigna disse: «Che farò? Manderò il mio diletto figliuolo. Forse a lui porteranno rispetto». Ma quando i lavoratori lo videro, fecero fra loro questo ragionamento: «Costui è l'erede. Uccidiamolo, affinché l'eredità diventi nostra». E cacciatolo fuori della vigna, lo uccisero. Che farà loro dunque il padrone della vigna? Verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri. Ed essi, udito ciò, dissero: «Così non sia». Ma egli, riguardateli in faccia, disse: «Che vuol dire quello che è scritto? La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare? Chiunque cadrà su quella pietra sarà sfragellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà». E gli scribi e i capi sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso in quella stessa ora, ma temettero il popolo, perché si avvidero bene che egli aveva detto quella parabola per loro. Ed essendosi messi ad osservarlo, gli mandarono delle spie che simulassero d'essere giusti per coglierlo in parole, al fin di poterlo dare in mano dell'autorità e del potere del governatore. E quelli gli fecero una domanda, dicendo: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni direttamente, e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. E gli è lecito a noi pagare il tributo a Cesare o no?» Ma egli, avvedutosi della loro astuzia, disse loro: «Mostratemi un denaro. Di chi porta l'effigie e l'iscrizione?» Ed essi dissero: «Di Cesare». Ed egli a loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio». Ed essi non poterono coglierlo in parole dinanzi al popolo, e meravigliati dalla sua risposta, si tacquero. Poi, accostatosi alcuni dei Sadducei, i quali negano che ci sia risurrezione, lo interrogarono dicendo: «Maestro, Mosè ci ha scritto che se il fratello di uno muore, avendo moglie, ma senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Or v'erano sette fratelli. Il primo prese moglie e morì senza figliuoli. Il secondo pure la sposò, poi il terzo, e così fu dei sette. Non lasciarono figliuoli e morirono. In ultimo anche la donna morì. Nella risurrezione, dunque, la donna di chi loro sarà moglie, poiché i sette l'hanno avuta per moglie?» E Gesù disse loro: «I figliuoli di questo secolo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno reputati degni d'aver parte al secolo a venire e alla resurrezione dei morti non sposano e non sono sposati, perché neanche possono più morire, giacché son simili agli angeli e son figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risurrezione. Che poi i morti risuscitano, anche Mosè lo dichiarò nel passo del pruno, quando chiama il Signore l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Or egli non è un Dio di morti, ma di viventi, poiché per lui vivono tutti. E alcuni degli scribi rispondendo dissero, «Maestro, hai detto bene», e non ardivano più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro, «Come dicono che il Cristo è figliuolo di Davide? Poiché Davide stesso nel libro dei Salmi dice, «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Davide dunque lo chiama Signore, e com'è egli suo figliuolo? E udendolo tutto il popolo, gli disse ai suoi discepoli, «Guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti ed amano le salutazioni nelle piazze e i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni. Costoro riceveranno maggior condanna».